diciamo alla grande, ok, anche perché è montata alta, va bene, quindi la puoi lasciare anche dove e se ne può montare un'altra, ok? Mentre io invece ce l'ho nel, a bordo giardino, giusto per fare due chiacchiere a livello locale, poi anch'io la metterò sul palo, la metterò su in alto, ma non sto pensando alle antenne adesso. Il cambio mi pare che c'è anche Giulio, è già andato via. È già andato via, siamo io e tu Franco Natalino. Benissimo, benissimo, capito Roberto? Questa è una prova tecnica che ti ho fatto fare come secondo operatore, giusto per farti capire che quell'antenna funziona benissimo, perché ce l'ho anche io e non mi ha mai creato problemi. Quindi chiaramente io ce l'ho a un metro da terra, tu ce l'hai a 20 metri dal piano trovare, quindi è chiaro che sta funzionando ottimamente bene, perché è anche attenuato, il segnale non attenua, rimane sempre al massimo della forza. Ok, molto bene, avanti Natalia. Adesso mi devo comprare il filo per farne il dipolo. Io lo stesso, adesso quello che avevo io, il tribanda 15, 20 e 40, lo passo a Robby e lo montiamo da lui. Poi io qua metterò qualcosa di performante, vediamo insomma cosa fare. Io adesso non ho testa per stare appresso alle antenne, ma sicuramente metterò una verticale 5 bande. Adesso domani mi vedo con Marco e vediamo un po' che cosa ordinare, fare, iniziare a preparare tutta la parte amatoriale di nuovo. E basta, ma sicuramente Robè metterò una verticale 5 bande o PKW o qualcosa di più performante. Non voglio mettere niente la verticale. Un attimo. A livello europeo lavoro alla grande, no, non mi interessa, a livello locale. Tutto qua, cioè sai benissimo che questo è un posto bello, alto, però molto pericoloso per i temporali, molto molto, perché campagna. Avanti Franco. Vabbè, ma che antenna è quella lì? La 300? Cos'è la 300? Ma manca pure un radialino, c'è stato uno sotto, dopo dovevo essere Antonio, aspetta un attimino, Antonio, che cos'è? Che antenna? È la XC300, un radialino già ce l'abbiamo, non c'è problema, vabbè. Avanti, chi c'era sotto? Antonio, tu sì. Ho schiacciato per sbaglio, dai, buonasera a tutti. Non ti preoccupare, già non mi hai sovramodulato, no, non c'è quel problema. Ciao a tu, buonasera e ben entrato. Cifra è la XC300. Io ce l'ho una in campagna. Perché io ho la 200 e più o meno sono uguali, da più o meno. Sì, sono, mi pare sia 20-30 cm più alta la XC300, 50 cm più alta, ma siamo lì. Le antenne sono buone tutte, non c'è problema. Vai Robè. Il radialino ce l'ho prima per io, perché ho trovato intera, è un radialino in acciaio, insomma già si ce fanno qui. Ma tanto non so se tenerla o tirarla via con l'antenna, ma se non da fastidio a nessuno la lascio stare, la tengo così. Tanto c'è già la calata di quell'antenna. Che cosa te ne fotte? Ma lasciala stare dov'è, no? Quell'impianto lì lascialo così com'è. E vai avanti con quello, al momento in cui decidi di montare la 7000, si monta la 7000 e si fa un palo unico con un'altra antenna, in modo che puoi usare anche, per dire, in diretta con quella piccolina puoi mettere 711 e il TS2000 lo lasci collegato direttamente sulla 7000, capito? Poi piano piano queste cose le vediamo, perché l'attività amatoriale è completamente diversa, no? Nel senso che se hai una radio che ti fa tutto non ti fa niente. Se invece è tutto separato, come abbiamo tutti i radioamatori, lavori molto ma molto meglio, perché sei in una frequenza, stai ascoltando dell'altra, sei lì e sei là, sei un po' da tutte le parti. Se invece è una radio unica che devi stare a commutare e spostarti, alla fine non fai assolutamente niente. Tutto qua. Avanti Antonio. Capa, buonasera. Ma ripiazzando le antenne amatoriali? Sì, beh, io ho detto montarle per forza, ce le ho già, una parte ce le ho già montate, le due lì ce le ho già, adesso direttive non le piatto più perché io voglio dormire, poi non voglio fare parco antenne, portarmi via il giardino, perché che mi serve per fare altro, e quindi monterò una verticale 5 bande che mi consente di fare attività amatoriale come ci hanno tutti, anziché a polarizzazione orizzontale lavorerò a polarizzazione verticale, ma non c'è nessun problema. E poi cosa cambia? Non cambia niente, ma questa roba qua non va in via, ma non anche in via Ponte mi sembra, no? Le due lì sì, ma le HF no, le HF devi andarci diretto, capito? Da qua non ne ho problemi io. Vedo già con la Smart Tech che c'ho certi segnali in 40 e 80 allucinanti, anche in 10, anche in 20, anche in 15. Quindi immaginate con l'antenna sua performante. A proposito, vabbè, abbiamo ancora quell'antenna della, quella della PKW, quella 5 bande ce l'hai ancora o l'hai distrutta? Quella è pronta per l'audio. Ah, molto bene, perché quella si verifica bene, si consulta il grande Fabri e vediamo se è performante, che c'è magari qualche modifichina da fare, si fa, mi pare che c'è da robustirla leggermente quel pezzettino lì. Si può popolare un altro tubo all'interno e fare un lavoro fatto bene, anziché buttarla, la montiamo e vediamo come si comporta. Allora vabbè, se me l'hai anticipato tu, te l'avrei data tranquillamente, non c'è problema. Già lo sai che con te non esistono i guai, bisogna fare un bel supporto, non un supporto, una con le piastre, hai visto c'ha quelle frange che sono aggaggata, che si gira, si piega, bisogna studiare un sistema tipo incastro o qualcosa che te le blocchi bene, si girata bene, la metti dritta, se no ti si tronca. Ci sono, ci sono. Dimmi a chilometri biciclette. Ciao Marco, non è che hai già mangiato, io ancora non manca il piatto, ero fuori che ero al telefono e poi sono rientrato e sono venuto qua a salutare loro. Hai già mangiato? No, oh, c'ho una fame da lupo, ma no, mi ha chiamato mio figlio e sono andato a cena fuori, allora ho spento tutto al volo e sono sceso, sono in macchina e sto andando a cena, c'ho fame anche. Bene, quella, se ci sono lavori da dove c'è da scendere il turno, mamma mia, diteglielo piano piano che DDL, se ci sono lavori così da fare, guai, come sta già con l'ansia, deve già accendere il turno, se non c'è il turno acceso è un problema. Sì, come che non lo sappia, lui dorme col turno. No, e c'ha questa, una verticale a PKW che è abbastanza performante, forse è una delle prime antenne. Oh, va bene, una 5 bande, ma è molto debole nel supporto di aggancio, quindi lì Fabri se le fa un supportino al tornio innalzato dentro con i due cavallotti nuovi e c'è una canonata con l'antenna, perché buttarla via? Proviamo tutto, avanti sorso, cambio. Ecco, ciao Marco, Scorpio, ecco la sorso, non so se mi ascolti. Cavolo se ti ascolto, c'ho qua io sopra come il presidente, c'ho l'aereo con i ricevitori accesi, anche se sono in macchina non c'è problema, mi trasferiscono tutto, ti vedo bellissimo, a colori come diceva un carissimo amico, bene, segnale forte e chiaro, molto bene Fra, ben risentito. E Fabri, quell'antenna te la rinforza, te la anima internamente, e me la ricordo, antenna uscì, ma comunque meglio di niente, diceva quello là. Poi se è gratis va sempre bene, la rinforza, la piazza in campagna, in terra, bisogna fare un po' di radiali e nelle HF puoi uscire, va bene, riprendi Robè. Sì, io sono il più piccolino, sto facendo basso basso, nessuno mi ascolta. Comunque ti ascolta la bomboletta Marco, non so dove sei, sta arrivando la bomba qua. Ok, radio chiara e pulita. E no, cara, quella lì vuole soltanto robustità, l'antenna è nuova, mi dà vista quanto è rimasta piazzata. Due mesi, alla fine l'ho tolta perché l'avevo troppo piegata, così no si tronca. Sì, ma non abbiamo piazzata c'era, l'abbiamo piazzata e smontata c'era, quindi già la conosco. L'antenna così, dire della PKW, che ho fatto quelle antenne, conoscendo il materiale della PKW, io li ho conosciuti proprio grazie a Marco, sono dei materiali robustissimi, delle cose fatte molto bene, lì è proprio forse una delle prime antenne, non lo so, comunque è molto molto molto leggera come antenna, non è che vada molto bene. Ok, il cambio per Michele, sto appuntando per la radio, vabbè, avanti Antonio. sogno se mi sarà andato a mangiare. Ciao Marco. Poi Natalino, Antonio avrà sentito il rumore dei piatti, di forchette e ha staccato tutto. E anche io ho visto già salutando. QSL, PKW, allora Martelli, grande Martelli, cavolo, mio sponsor è stato, mio sponsor è proprio, ho visto il certificato dall'altro giorno e devo sempre incorniciarlo. Mi aveva sponsorizzato lui, le antenne che ho io ancora sono sue, beh, la IAGI, per i 10, 15 e i 20 metri monobanda, quei bestioni che ho ancora, addirittura la monobanda è, l'ho messa giù, non l'ho neanche smontata, mentre quella dei 20 è smontata, quella dei 10 è ancora operativa sulla torre più piccola, e ha 30 anni, 31 anni, perché è stata montata nel 1990, 32 anni quasi, no, 31 anni precisi, e ancora funziona alla grande, stazionari 1-1, e quando c'è mettere birra a tutto motore, lei va serenamente, senza problemi. Va bene, ragazzi, un piacere, come sempre, e adesso però, quando si tratta di mettere le gambe sotto al tavolo, non ce n'è per nessuno, non avvicinatevi, perché occhio che con la forchetta posso conficcare qualche mano, Ciao, ci sentiamo, K e Mimi, Marco Scorpio, QRT, gnao, riprendi Claudio e fa girare. Vedi, poco fa che mi è arrivato un segnalone. Occhio bombolo, ti faccio saltare in aria quella radio, Portanti a due tuoni anche a te. Ciao, buona cena a tutti. Ciao, buona cena, ciao. Ciao Marco, ciao, mi ricordo sempre il messicano. Ti trattengo, approfondiremo domani. Ciao, buona ciao a tutto, salutami a tuo figlio, ci sentiamo, avanti Roberto. Sì, ciao Marco, ragazzi, avremo modo di sentirci prossimamente, sempre in base alle tue disponibilità. Ok, e cosa volevo dire? Claudio, c'è la partita, avremo un quarto del Cagliari, se ti interessa. Non so, che ore sono? Le 8, le 20 e 28 c'ho io qua in sala radio, dovrebbe essere anche preciso. Male do uno sguardo, non so cosa c'è la TV, mi devo trasferire qua in stanza e guardare su con quello piccolo, il tuo maggiore, perché quello grande è impegnato, c'è il grande fratello stanotte, che cosa ride? C'è andato a travagliare, chi sa niente. Ok dai, Claudio, io vi devo salutare per forza maggiore, ci sentiamo tutte le prossimine. Ciao Marco Scorpio, Antonio e Roberto, ci sentiamo tutte le prossime, correti per me, riprendi qua. Ciao Fra, ci sentiamo le prossimine, dai, se vengo a Socio, devo andare a Vannino a trovarlo, già ti chiamo e ci prendiamo un camparino insieme. Ciao, buona cena, buon tutto, cordialità e saluti a casa, vai Natali. Ciao Franco, Marco, sei all'ascolto, buona cena, alle prossime, dai, anch'io chiudo e vi saluto, ciao a tutti. Scusa Natali, non me l'ho ricordato di te. Ciao Natali. E ciao a tutti, ho salutato a tutti così non sbagliavo. Salutami a Corretti... Giulio. Già una cuta se n'è andato Giulio. Ciao a tutti, dai, correti per me. Ti prendo io, dai, ciao Natalino, ciao Fra, come sentite tutti e due, vai Claudio. Ciao Natali, ciao, sento che concetta sotto. Salutoni, molto bene, ok, comunque vabbè, hai visto, l'antenna funziona, va benissimo, alla grande, adesso è anche settato, quella prova era da fare anche prima, però ne ho approfittato stasera, come se l'operatore ha fatto proprio una prova tecnica di trasmissione, va tutto bene, la radio è già settata, sei pronto, via, ma è lunedì, c'è già il nominativo e quindi sei già operativo, non hai bisogno di trasmettere da qua come secondo operatore, va benissimo alla grande, quindi sei già attivo nel VLU e poi vediamo, insomma l'HF, penso che in settimana se ci dà tregua questo cacchio di tempo, montiamo anche l'altra antenna e così si è operativo al 100%. Va bene, avanti Roberto. Antonio ogni tanto sparisce. Antonio sta pompando più del solito questa radio. Che strano. Minchia, ci avete picchi allucinati. un attimino, noi dobbiamo lasciarvi, ci sentiamo, sarà l'epa che posso andare in più, che mi sta arrivando la pizza, ciao ciao. No, mentre Eva anche l'antenna, non ti preoccupare, era la radio che è bella calda, era stamattina accesa. Va bene, ciao Anteo, buona pizza, buon tutto, dai, ci riascoltiamo, vero? Sì, altro già ci risentiamo prossimamente, buon tutto, buona cena e buona pizzata se vi fa. Io la giù vado, anche io tra poco vado a mangiare. Ehi, ehi, no, io ho visto già apparecchiato, anche cosettine buone, ci mi faccio un aperitivo con mia figlia, che ho visto che ha portato qualcosa dal bar. Faccio un aperitivo e poi ceno, vai, noi sempre la sera con mia figlia quando è a casa, che rientra presto, ci facciamo un aperitivo, uno sfumantino, due cazzatine, vai, sono arrivate dal bar, degli aperitivi e poi ceniamo. Va bene, ho detto 35 segnale, pieno pieno, c'è. Quasi a 35, ci avvicini, dai. Sta pompando un bel radio stasera. Forse perché è calda, vabbè, questo oggi è il porno, buffo meglio. Abbiamo fatto anche stamattina le cose con Marco, addirittura mi ha fatto invertire la commutazione e mettere due antenne e una radio, perché prima facevo prima una radio e poi l'altra, ma no, così non va bene, metti una radio solo, inverti la commutazione e fai una radio con due antenne, ed è così, ed è così. Non c'è niente da fare, è così. A parità di potenza questa schiaveggia forte, quasi 5 dB a casa sua portava via, 3 dB mi ha detto, 3 dB, mentre invece da Saverio 4 e da Claudio a Porto Tose 5 dB di differenza, quindi come hai detto tu, più lontano sei, più lo preco Marco siamo molto vicini, anche con Saverio, però a Porto Torres più lontano sì, infatti c'è anche scritto che a lunga distanza ha un guadagno ancora nettamente superiore. Sì, perché c'è il coso più basso della vatova, c'ha quello radiale davanti, quel direttore, quello ti spara ancora di più. Ha una bella antenna. Poi costruita anche bene, ho visto le caratteristiche, non è una gagaga fatta come si deve fare l'antenna. Cosa volevo dire? Quella PKV è longa a me, non è piccolina a me, è grandetta di altezza, sarà io penso 8 metri con l'antenna, 7 metri 50. Sì, la mettiamo al posto della mantova intanto, perché mi sono stufato. La mantova non la uso, ormai c'ho sempre questa attiva e quindi le staffe sono già messe, la metto al posto della mantova, tolgo la mantova e monto quella. Ci monto un palo da 2x2, telescopico, bello robusto che ce li ho. Non c'è problema, roba, capito? Le aggancio il cavo della mantova ed è già pronto. Capito? È già pronto, la pulisco bene, però prima devo farmela rinforzare. Una volta che è rinforzata, allora la piazzo, perché piazzarla e poi ne cade a testa a terra e si fa male, no, non va, capito? Va bene, poi già ci aggiorniamo domani, dai, intanto io esco presto e perché poi ti ripeto, devo dare la macchina in aria, al limite mi ha detto Marco già passi a prenderti. Non c'è nessun problema, ok, ci andiamo a pappare che sono meno 25, eh? Mi sa di sì, che va giù un poco di languorino, dai, già ci sentiamo la mattina, poi se viene Gianfranco presto ti chiamo, andiamo a fare un girettino, dai, poi se viene anche Marco, non so, vediamo un pochettino, dai, ok, dai, buona cena, buon tutto, a domani allora, correti da parte mia, saluto anche gli eventuali qua ascoltoni che ci sono, ciao ciao. Aspetta, allora sta andando. Ma io dai, veloce, dimmi quello che devi dire, sta dicendo Gianfranco, se viene presto così Claudio si fa trovare, lo andiamo a prendere, vediamo. Guarda, io domani passo per lasciarti quella roba, però una boccata e fuga, penso di passare anche abbastanza presto, guarda, giusto per passare tardi alle 8 massimo. Aspetta, no, perché io il sabato me la prendo un po' con comodo, normalmente in officina arrivo alle 8 meno 10 e poi vado a prendere il pane, tempo di scendere e salire, si fanno le 8, 8 e 5, là, tanto non che non ci saranno i ragazzini, ma a me ma sabato molte volte non ci sono i ragazzini dalle scuole, per cui non lo so, se vieni dopo le 8 problemi ti va. 8 e 5, 8 e un quarto. parto proprio al massimo, facendo sacrificio. No, no, va bene, 8:50-10 vanno bene, no, no, perché se poi mi sono ancora mezzo addormentato, beh, certo, io mi alzo sempre presto, però il sabato dico, tanto l'officina non viene nessuno, non c'è quello, perché io alle 8 sono operativo in officina, sempre, alle 8:10 apro, sistemo tutto, tutti i giorni alle 8:10, però il sabato dico, tanto non c'è nessuno, è come che sia chiuso, faccio in modo, comunque dai, per le 8, tanto abbiamo i numeri di tutti e due, dammi uno squillo tu eventualmente, così recuperiamo anche a Claudio e vediamo. Ecco Gianfranco, ma non muge devi andare, mica sabato e domani, ma perché lavori anche domani? Io lavoro sempre H24, con la pioggia, con la neve, anche con i fulmini. Dice alle 8, lo dicono, vabbè, io prima di 8:30 c'ho un'officina comunque, dai. E poi vediamo un po', dai, vi saluto, che ci ho fatto anch'io, vado a mangiare, ok, un abbraccio a tutti, grazie del QSO, vabbè, grazie delle prove in V, non abbiamo fatto quelle in U, comunque già ci aggiorniamo, dai. Intanto io domani devo vedere Marco, perché ho un problemino in UHF e devo risolverlo per forza, altrimenti non sono attivo in UHF, ma domani lo risolviamo tranquillamente. Ok, un abbraccio a tutti, ci sentiamo, buona cena, ciao, vai, chiudo. Ok, ci sentiamo allora. Allora, beh, ti chiamo se finisco prima o se finisco dopo, vediamo un po', dai, domani mattina comunque ti faccio, prima di venire da te ti faccio un squillo. Aspetti, oh Gianfra, ma tu hai ancora quel veicolare bibanda? Veicolare bibanda, quale? Non ne avevi dato uno, mi pare, non mi ricordo, quando ero a Carbonazzi. Hai qualcosa tu di bibanda veicolare con i toni, qualcosa così? No, quello che ho dato, che tra l'altro l'hai visto anche tu, adesso che mi ricordo, era quello digitale, bibanda, non l'ha voluto nessuno, mi ricordo, e quindi l'ho mandato per prendere un altro tipo d'attrazzo, un'altra tipologia. Tra l'altro anche in garanzia, ne avevo preso due più importanti, ne mi è rimasto uno che è fisso con stazione come apparato secondario e un il portatile, che sono entrambi digitali comunque. Sì, mi ricordo, sì, che ti avevo detto non lo vuole nessuno e quindi avevi mandato, l'avevi versato, dai, assieme a quell'altra grande, ok, va bene, dai, vedrò domani mattina di fare un paio di telefonate, ci sentiamo, ciao a tutti, buon fine serata, vai Roberto. E anche io adesso vado a mandigare, ok, ciao Claudio, ciao Gianfranco, dai, ci sentiamo domani mattina, dai, e magari ci fa una bella chiacchierata, ciao ciao, pure te da parte mia. Ok, a domani, ciao ciao. Non c'è nessuno, state tutti già masticando, come mai, come mai, come mai, come mai. Vabbè. Ciao a tutti, agli ascoltatori che non vogliono rispondere, ci sentiamo domani, ciao. Vediamo un po' se c'è qualcuno in ascolto, buonasera.